Nei giorni immediatamente precedenti l'insurrezione generale, gli operai e le squadre SAP interne alla fabbrica provvedono ad innalzare opere di difesa passiva, bloccaggio delle porte secondarie, costituzione di muretti protettivi, in modo da preparare la difesa dello stabilimento dagli attacchi tedeschi. Un attacco che arriva, durissimo, il 26 di aprile, quando dalle 17 alle 21 l'intera fabbrica è colpita da colpi di carri armati nazifascisti. Dopo un primo scontro avvenuto nel pomeriggio contro dei militi fascisti della decima MAS, gli operai costruiscono tre carri armati, uno dei quali semovente con un pezzo d'artiglieria, terminando il lavoro verso le ore 21. Pochi minuti dopo, le colonne fasciste e quelle tedesche, forti di due carri pesanti, un'autoblinda e alcuni camion delle Brigate Nere, arrivano in Corso Ferrucci e in via Monginevolo, da dove sferrano un violento attacco iniziando a cannoneggiare lo stabilimento. Le armi a disposizione dei sappisti non sono sufficienti a contrastare una tale potenza di fuoco, ma proprio quando gli insorti stanno per cedere, un gesto decisivo, quanto disperato, risolve la situazione. Un operaio esce dai cancelli della SPA, alla guida del carro armato semovente, sul quale sono issate le insegne del CLN, e subito dopo i nazifascisti furgono in ritirata, probabilmente convinti che molti di quei bolidi fossero pronti per entrare in azione. In realtà non è vero, visto che i sappisti, oltre a non possedere altri carri armati, non possiedono le pallottole, né per il camioncino, né per la mitragliatrice posti sul carro. All'esterno dell'ingresso di Corso Ferrucci 122, una piccola targa è dedicata alle maestranze che difesero gli stabilimenti nell'aprile del 45. La lapide posta invece all'interno della fabbrica con i nomi dei caduti e dei portati è stata trasferita nei locali del Comune di Torino. Le lapidi della Fiat SPA, grandi motori, materiale ferroviario, autocentro e ricambi presentano tutto un'identica iscrizione che precede l'elenco dei nomi. Lavoratori di questa sezione Fiat, caduti dalla Liberazione Nazionale, aprile 1945, morti combattendo nella difesa degli stabilimenti, nella lotta partigiana, martiri della rappresaglia nemica, vittime dei campi di concentramento tedeschi.